Siamo con Daniele Lupi del Cineclub de Tour per parlare del documentario Entre Homens de Bem di Carlos Juliano Barros e Caio Cavechini. Non so se le pronunce siano giuste. Comunque, Meno. documentario che sarà programmato, uno dei documentari internazionale, il prossimo 16 giugno. Daniele, ben trovato. Ciao Federico, bentrovati a tutti. Lo racconti? Certo, volentieri. Innanzitutto ci tengo a dire che la terza proiezione di questo film del ciclo di documentari di internazionale. Noi ne abbiamo proiettati 6 su 8 dei documentari di internazionale e ognuno di questi li abbiamo proiettati più volte. Questa era giunta alla terza proiezione perché anche le altre 2 volte la sala era piena, il film è piaciuto e non cessa mai di essere attuale, direi purtroppo un po' anche, no, se lo vogliamo dire. La storia del film racconta una storia, uno squarcio della realtà politica del Brasile attuale, perché il film è del Siamo 2006, con quindi Sam. sulla storia di Jean Willis, un personaggio mediaticamente noto in Brasile perché è stato un vincitore del Grande Fratello nel 2005, ma soltanto nel 2010 poi è stato eletto al Parlamento nazionale brasiliano, dichiaratamente gay, dichiaratamente a favore quindi dei diritti della comunità LGBT, e queste sono le battaglie per i diritti gay, i diritti umani che porta avanti nel Parlamento. Chiaramente non è ben visto, chiaramente non è ben voluto, e il documentario, oltre ad essere un racconto sulla sua esperienza e sul quadro politico del Brasile, è purtroppo anche un ritratto dei suoi principali avversari politici. Dico purtroppo perché ad ottobre in Brasile si rinnoverà il Parlamento, ma anche quindi il Presidente, ci saranno le elezioni del Presidente e del Parlamento, elezioni generali politiche, e quello che vediamo ritratto nel film è un certo Jair Messias Bolsonaro, conservatore di destra estrema e nonché rappresentante anche della comunità evangelica brasiliana. Ecco, quello è uno dei principali candidati a divenire il nuovo Presidente brasiliano. Sì. Daniele, ecco, in base anche a quello che stai raccontando e anche al recente Gay Pride, globalmente mi sembra che ci sia una forte polarizzazione sull'identità sessuale. Ovunque si viene allo scoperto ci sono grosse manifestazioni, ma anche ormai una diffusione sociale dell'affermazione della propria identità sessuale e d'altro canto invece, soprattutto dai settori della destra o della religione, ci sono forti attacchi. Insomma, mi sembrano e società un po' ovunque spaccate nettamente. Nettamente spaccate la società, ma quello che più mi ha colpito a me personalmente sono i toni, no, della politica, i toni di chi comunque dovrebbe rappresentare e lavorare un po' per i diritti di tutti al di là del pensiero personale. Invece, oltre che la polarizzazione, c'è una ripresa dell'ideologia, di una forte Sì. visione ideologica e distante proprio da qualsiasi principio di realtà, no? Anche qui in Italia il ministro della famiglia, sua prima uscita, affermazione ideologica completamente priva di nessuna connessione con quella che è la realtà di fatto poi della società. Ecco, questo Bolsonaro, per dirne uno, è chiaramente quello che emerge di più dagli altri, ma ci sono ritratti di altri antagonisti politici, di Jean Willis. Ecco, lui in particolare, siamo ancora più a destra di Trump, e non c'è nessuna remore a manifestare idee estreme come simpatie per la dittatura militare brasiliana, presunta legittimazione delle torture in alcuni casi, omofobia palesata come principio morale. Ecco, Sì. c'è questa trasformazione all'interno di questa polarizzazione che tu hai tracciato e ben individuato, poi c'è questa deriva violenta, veramente violenta, già a partire dalle parole, e che ovviamente poi, come ci fa notare anche il film, ha delle conseguenze nella realtà, perché le aggressioni omofobe in Brasile sono all'ordine del giorno, anche Sì. più di una al giorno. Sì. Daniele, quali sono a tuo avviso i pregi di questo lavoro? Il pregio di questo lavoro è nel mettere alla luce il sincretismo culturale rappresentato da Jean Willis, che ben rappresenta e rispecchia il sincretismo culturale della nazione brasiliana, e mentre invece i suoi antagonisti negano palesemente questa multiculturalità originaria della nazione brasiliana. Basti pensare che questo Jair Bolsonaro, italiano, è fondamentalmente figlio di italiani immigrati 40 o 50 anni fa in Brasile, ma porta avanti istanze ideologiche totalmente appartenente al vecchio continente. Allora, ricordiamo la programmazione per il 16 giugno al Cineclub de Tours a Roma. Entre os homens de bem di Carlos Juliano Barros e Caio Cavechini. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Lupi. Daniele, un. Ricordiamo anche l'orario delle 21:15, che se mi Perfetto. permetti ricordo anche la proiezione che precede questo film, perché sabato c'è la doppia proiezione alle 19:30 che è di La città dei gatti, un documentario randagio sulla vita dei gatti senza padroni. Chiaramente tutti i riferimenti sul sito internet e sulla pagina Facebook. Cinedetour.it e su Facebook ci trovate come Cinedetour. Un abbraccio e a presto, ciao Daniele.